In realtà sono stati trasferiti circa 400 rifugiati, ne sono rimasti fuori dal trasferimento in strutture di accoglienza e circa 300 persone dei vecchi censiti, del vecchio censimento. Per due motivi sostanzialmente. Il primo è che la comunità sudanese, che adesso continua ad occupare uno dei due magazzini dell'ex Tiburtina, quello più piccolo, ha rifiutato la proposta del comune perché l'ha ritenuta insoddisfacente dal punto di vista delle richieste dei criteri, delle condizioni minime di dignità rispetto ai nuovi centri di accoglienza. La seconda ragione è che circa 150 richiedenti asilo e lavoratori stagionali nelle campagne pugliesi per la raccolta del pomodoro non erano presenti durante il trasferimento e quindi nei giorni seguenti sono tornati a Roma e non hanno trovato il posto che, diciamo, in teoria era stato garantito dal censimento precedente. E il problema fondamentale che hanno sollevato le comunità migranti è che rispetto alle promesse del Comune di Roma di allestire nuovi centri di accoglienza che da subito assumessero le forme di autogestione e di autogoverno delle esperienze di Tiburtina, ciò in realtà non è accaduto. Prima di tutto perché sono stati dislocati in 10 strutture, delle quali soltanto 2 ex novo ristrutturate, 2 capannoni e un capannone commerciale ristrutturato su via Tiburtina e un altro una palazzina che si trova nella zona della batteria Nomentana, tutte e due nel terzo municipio. E le altre strutture che hanno accolto i 500 rifugiati sono piccole strutture comunque che fanno parte del vecchio piano d'accoglienza del comune, che sostanzialmente ricalcano nella gestione le rigidità di orario, le rigidità di auto-organizzazione lamentate già dai migranti precedentemente al loro trasferimento. Quindi diciamo che in questo momento la questione aperta riguarda la sistemazione di tutte quelle persone che sono rimaste fuori dal trasferimento da Tiburtina e soprattutto le forme di organizzazione interna che devono ricalcare, dopo le parole anche del sindaco Veltroni che ha rivendicato questa operazione come valorizzazione dell'esperienza di Tiburtina, che devono ricalcare appunto quelle forme di autogestione tante volte richieste dai migranti. E, concretamente il coordinamento delle comunità con le associazioni insomma presenti dentro Tiburtina hanno conquistato 2 tavoli istituzionali, uno riguardo la sistemazione della comunità sudanese rimasta fuori al trasferimento e il secondo sulle forme di organizzazione interna di nuovi centri di accoglienza, che dovrebbe essere un tavolo in cui dovrebbero partecipare sia il quinto dipartimento, sia il gabinetto del sindaco, che le associazioni e le comunità rappresentate dentro il coordinamento. In più ci dovrebbe essere l'apertura di un segretariato sociale che nelle intenzioni dei migranti e dell'associazione dovrebbe servire da sportello sociale per indirizzare i rifugiati o richiedenti asilo verso le strutture di accoglienza. Diciamo che questo è lo scenario che si trova di fronte alla situazione della ex Tiburtina e le prossime scadenze verificheranno concretamente la volontà del Comune di intraprendere la strada verso un nuovo modello di gestione dell'accoglienza a Roma.